America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington, Mario Platero. President hosting conservative and moderate Republicans today, but so far unable to cobble together the votes to get healthcare over its first major hurdle. Beh, avete sentito, la riforma sanitaria per ora non è passata. Donald Trump aveva detto assolutamente arriveremo al voto giovedì e vinceremo, invece ancora non ha vinto ed è un problema che questo voto sia slittato. Perché? Perché c'è una formazione nel contesto del Partito Repubblicano che non promette bene, almeno per ora, perché tutti i democratici naturalmente voteranno contro. Per poter passare la riforma bisogna di 216 voti. Dei 237 repubblicani alla Camera, 146 sono favorevoli, solo 146. 46 sono indecisi, ma anche se si conquistano tutti gli indecisi, sul fronte del no restano 33 repubblicani che hanno detto che loro non cambieranno idea. Altri 12, come dire, hanno delle riserve, ma potrebbero cedere all'art of the deal, all'arte dell'affare, perché questo è il tema in cui sappiamo Donald Trump è grande maestro, quello di trovare un compromesso, quello di chiudere un affare, un deal. Infatti Donald Trump ieri ha passato la notte a fare varie telefonate, a cercare di lusingare o minacciare questi repubblicani, ma molti non si sono lasciati intimorire perché loro sanno che vincono le loro elezioni grazie alla base elettorale locale, non grazie a un'indicazione di voto centrale. Dunque c'è ancora una grande confusione, un grande caos, ci sono state preoccupazioni sui mercati, nel senso che i mercati risalivano, poi hanno virato al ribasso quando si è saputo che non ci sarebbe stato un voto positivo. Ecco, detto questo, archiviata questa parte politica importante, per ora appunto non abbiamo la notizia, voglio parlarvi ancora di terrorismo, soprattutto di Libia. Together we share a resolve to deal ISIS or Daesh a lasting defeat. Our coalition is united in stopping an ISIS resurgence. La conferenza dei 68 paesi che fanno parte della coalizione anti-ISIS si è chiusa, ci sono state un po' di idee, si è cercato di trovare un terreno, un percorso comune e in questa coalizione fanno parte numerosi paesi arabi, non sono soltanto paesi occidentali o paesi che a livello globale sono impegnati nella guerra al terrorismo e in particolare di questa coalizione fa parte la Libia che è un paese per noi chiave, un paese a noi vicino, un paese con cui condividiamo cultura, tradizioni, emozioni. E ho qui con me ai microfoni di America 24 proprio per parlare del ruolo di un paese arabo in questa guerra al terrorismo, il ministro degli esteri libico Mohammed Siala. Buongiorno ministro. Buongiorno. Dunque una piccola parentesi, il ministro parla un pochino italiano anche perché è stato nel consiglio di amministrazione della Fiat quando la Libia aveva una quota nel capitale dell'azienda automobilistica torinese, anche azionista dei Tamoil dopo. E com'erano quegli anni in cui avevate queste partecipazioni libiche in Italia? L'Italia è uno dei nostri vicini più stretti, con cui condividiamo tradizioni, storia, geografia. Abbiamo molti investimenti in Italia e crediamo in questo paese. Siamo ancora presenti in Tamoil, in Unicredit, mentre abbiamo venduto le quote di Fiat. Si trattava infatti di investimenti e quando si è presentata la possibilità di vendere, lo abbiamo fatto. È contento di quello che ha fatto Unicredit recentemente? Hanno aumentato il loro capitale? Sembra che stiano facendo bene. Sì, stanno facendo bene. Unicredit è una delle banche più grandi e importanti, sia a livello europeo che mondiale. Siamo molto felici del nostro investimento. Torniamo a parlare di terrorismo. L'ISIS si trova all'interno dei confini libici ed è uno dei problemi principali che il suo paese deve affrontare. Quale sarà il vostro piano d'azione nel breve periodo? La Libia ha perso la sua stabilità all'indomani della rivoluzione e questo ha permesso all'ISIS di penetrare nel paese. Usano la Libia come un rifugio sicuro per i terroristi stranieri perché non c'è stabilità, non c'è sicurezza. Grazie alla ferma volontà dei libici e al supporto degli americani, la nostra battaglia per respingerli sta avendo successo. Sirte ormai è stata liberata. Un contributo importante è venuto anche dall'Italia che ci ha fornito un ottimo ospedale da campo a Misurata. A Sirte ora stiamo passando alla fase della ricostruzione e stiamo cercando di far tornare le persone nelle proprie proprie case. And, we are now running, lo scontro con l'ISIS ora si è spostato nel deserto, intorno a Sirte, dove i suoi miliziani si sono sparpagliati. C'è poi il problema del controllo dei confini, che si estendono per oltre 6.000 chilometri, 4.000 terrestri e 2.000 di coste. Ci servirebbe l'intero esercito cinese per poterli controllare. Ma stiamo cercando di fare del nostro meglio, aiutati dalla comunità internazionale, Italia compresa. Apprezziamo molto questo aiuto. Ecco, Ministro Siala, parliamo del problema dei migranti, dei rifugiati, un problema per noi molto grave, molto importante, molto sentito non solo in Italia ma in Europa. L'Italia naturalmente è preoccupata perché è la prima linea di frontiera. Questo problema si è trasformato anche in un problema politico. Ecco, cosa può dire l'Italia per rassicurarci sul fatto che qualcosa verrà fatto per fermare questo immenso flusso di persone che tenta di entrare illegalmente nel nostro paese? This is a big problem for us. È un grosso problema per noi, per l'Italia e per l'Europa. Ne siamo consapevoli e pensiamo sia fondamentale collaborare con l'Italia e i paesi europei per risolverlo, se non altro nei suoi aspetti più negativi. Con l'aiuto degli altri paesi, credo proprio che ce la faremo. Ora, ad esempio, abbiamo raggiunto un accordo con l'Italia per avere un aiuto nell'implementare la nostra guardia costiera e abbiamo anche trovato un'intesa con i paesi africani per controllare il nostro confine meridionale. Con questi paesi collaboreremo anche per investire sul futuro dei giovani africani nei loro paesi d'origine ed è un approccio fondamentale per combattere alla radice i motivi che li spingono a migrare. Magari non riusciremo a risolvere completamente tutto questo problema, ma sono sicuro che riusciremo a ridurne l'impatto. Ecco, un'ultima domanda sulla Libia, signor Ministro. Sa quanto tengo a questo paese, che in qualche modo considero il mio paese? Ne abbiamo parlato, io ho fatto dei viaggi da Tripoli a Gadames e penso che però oggi sarebbe molto difficile rifare lo stesso viaggio perché c'è ancora molta, molta instabilità. Dunque, se dobbiamo pensare al futuro, quanto tempo ci vorrà perché sia di nuovo possibile avere un paese in pace e viaggiare nel deserto fino a Gadames, in questa splendida oasi che fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO? Dipende dal risultato degli sforzi che stiamo facendo. Se riusciremo a consolidare la riconciliazione politica, un accordo che ha richiesto 2 anni di lavoro, se riusciremo a convincere il generale Khalifa Haftar a riconoscere questo accordo e a lavorare sotto la supervisione del potere politico, e se infine riusciremo a convincere il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aghila Salah Issa, ad occuparsi solo del lavoro in Parlamento come scritto nella Costituzione, concentrandosi unicamente sulla promulgazione delle leggi e sul controllo del governo, ecco, allora penso che troveremo una soluzione. Da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.